Mora cinese, sasso. Pari. Mora cinese, candela. Forbice. Ho vinto io. Mora cinese, sasso. Ho vinto io. Mora cinese, candela. Hai vinto tu. Nartra Radio Roma. Prossima fermata. Tous des sales gueules un peu sottovoce, sottovoce, sottantreno, sottantreno, sottantreno, sottantreno, sottantreno, sottantreno, sottantreno. Dopo 5 mesi devo ammettere che di strada l'abbiamo fatta. Ah, sottolineiamo i soprannomi che ancora non li sapete tutti. Ho visto il Gasperino, è il nostro... è il professore. Mister Campo è il nostro nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno. E Mister Brontolo il nostro KKK. E soprattutto è Nartra Radio Roma. Qui per voi Mister Cogot Erdaglie. Il primo artista che volevo passarvi oggi è Carta Marco, ma visto che la carta vince contro il sasso ma perde contro la forbice e al massimo può vincere a Sanremo, non è un artista per Nartra Radio Roma. Amici e amiche dell'Altra Radio Roma, salve a tutti e benvenuti! Oggi Mister Gasperino ha una carovana di musica da farvi ascoltare. Pertanto non mi perdo troppo in chiacchiere e vado a iniziare. Non prima però di avervi ricordato l'unico comandamento di questa radio, che trasmette musica solo e esclusivamente Creative Commons. Pertanto, chiunque di voi voglia cimentarsi e creare un proprio podcast, con licenze lontane da quelle SIAE, può inviarlo qui a Nartra Radio Roma, che vi trasmetteremo sicuramente. Vado ad incominciare quindi con il genere Hip Hop, nasce a New York. Questo movimento oggi è espressione di denuncia tra i più giovani. Pertanto, visto il momento che stiamo vivendo qui nel nostro paese, ho voluto dare voce a due personaggi. Il primo viene da Taranto, si chiama Gallo, artista già proposto da Mr. Coco, che ci farà ascoltare Il Popolo Civilizzato. Successivamente ascolteremo da Sassari, da etichetta Mannaia Records, i Senka con Medinita, Medinita, Medinita, Medinita, Medinita, Medinita, Medinita. Buongiorno, allora. Signor giudice, sì? È il caso di chiederle se dopo le drammatiche disavventure che ha avuto, lei crede ancora nella giustizia. Ma dopo le recenti amare esperienze, io mi chiedo se è ancora utile investire tante energie per l'applicazione delle leggi. O se invece, rinunciando a vacue speranze e ad aspettative mai ripagate, non ci convenisse accettare l'ingiustizia come regola e non come eccezione. Questo nella speranza, ovviamente, che almeno l'ingiustizia sia uguale per tutti. Scusatemi, signori, ma sono inquisito. I giudici mi aspettano. Grazie a loro. Nartra Radio Roma. Mi pensano che un popolo civilizzato definito da vedere magari chi ha comprato. Perché nella vita ci vuole culo, ci vuole culo, ci vuole culo, ci vuole culo, ci vuole culo. Proprio come quando giochi a carte, ma la fortuna sta girata da un'altra parte. Bisogna fare come i giapponesi, sempre troppo cortesi, con gli occhi a mandorle accesi di un odio imperiale. O ti parlo della società che sta male, ma chi la vuole curare? Il dottore è andato in vacanza, dimenticandosi il bisturi nella panza dello sfortunato paziente. Paga l'assicurazione ma la clausola non comprende. Poco male, scappo dall'ospedale, passo il tempo in un caffè dove c'è gente che non parla come me, non pensa come me. E soprattutto sta gente gente chi cazzo è. Vestono strani, hanno due occhi e due mani, sorrisi di circostanza che si perdono nelle rughe, panza schiacciata più di un hamburger, catenina d'oro con la croce, un velo di malinconia nella voce, fa schifo come il bacio fra Fiorello e Del Noce, la TV non mi piace, ci han preso per un popolo di idioti. Vuoi vedere un bel programma? È meglio che prenoti. Ci sono posti vuoti al Ministero Arte e Spettacolo, varietà in chiesa direttamente da Tele Tabernacolo, presenta Chiambretti con Luca Laurenti che si è rifatto i denti perché quelli vecchi erano poco intelligenti, tutto sotto consiglio di Costanzo che condurrà un dossier sulla carne di manzo e su come riciclare ogni singolo avanzo da ogni famiglia italiana, pubblicato su Famiglia Cristiana, redatto da Cristina D'Avena che ai puffi fa pena, si salutano appena, poi appena lei si gira le gridano a scema. Tanti pensano che un popolo civilizzato è definito tale dai regali che ha comprato. Il folk fa fare cose straordinarie, tipo votare Berlusconi nuovamente alle primarie, ne faranno una serie TV, partecipa anche tu, cercano tanti che darebbero il culo pur di andare in TV, basta farti un po' il sopracciglio, magari uccidete vostro figlio se lo avete, se cose fanno audience penso che lo sapete, tenete alla parete il quadretto col Presidente della Repubblica, simpatico vecchietto, non è una garanzia, ma sembra dell'epoca della monarchia. Mamma mia. Tanti pensano che un popolo civilizzato è definito tale dai regali che ha comprato. Tanti pensano che un popolo civilizzato è definito tale dai regali che ha comprato. Tanti pensano che un popolo civilizzato è definito tale dai regali che ha comprato. Tanti pensano che un popolo civilizzato è definito tale dai regali che ha comprato. Tanti pensano che un popolo civilizzato è definito tale dai regali che ha comprato. Dai regali che ha comprato. Sagaggia mare, basta, se un... Dagli una canone. Tempo di un po' di polemica. Mr. President. Ok. Sti figli di puttana. Il mio paese è una vergogna. Il nome Italia in tutto quanto il mondo viene tradotto come troia. Non perché sono stravaganti, perché sono realisti, per me idem. Capisci? Quindi è giusto che si prenda un dissing. Schiavo di Romano, bello se tu lo schiavo. A stare appresso a questi infami corrotti da Tremonti Alfano. Mister Maroni, il tuo nome parla da solo. Le scassate a tutti, faccia di cazzo. Salta col tritono. 12 stronzi, burattini, bella merda. Vicenda, fatevi saltare le cervella. Figlio di troia, senti la morte che bussa, falcere con la mannaia la tua testa, Ignazio la Russa. È proprio la cultura che ti manca, signor Bondi. Tu con la Gelmini siete una coppia di stronzi. Mi dai la nausea, tu coglione di un Bossi. Capisco un cazzo quando parli, vaffanculo i tuoi discorsi. Voglio un'immunità, collodo questi qua. Ma anche per noi con il vaccino, per l'influenza A. La Lega che governa, non so se ti rendi conto. Rasentiamo la commedia, ma da ridere non c'è poi molto. Camice verdi ed affiliati meritano di essere sbranati in pubblico così che tutti vedano. Fare una tavolata lunga è il vino giusto, assaporarli ma il sapore fa schifo, brutto gusto. Mia vita è la mia vita questa, non potrà, no ti prego no, mai dipendere da questi stronzi qua. Politica, è una politica assurdità, di assurdità non lo vedi, ti chiedi come cazzo andrà a finire, perché solo Dio lo sa. Tempi cupi, lo vedi ovunque scruti, presidente tu doveri quando ammazzavano Cucchi. Non ti interessa se è costato una vita, le varie di mezzo, 20 grammi di Tikal. Cristo, hai visto quelle foto, come puoi risolvere la cosa con la semplice denuncia ignoto? Cosa succede nelle carceri italiane? Vaffanculo e secondini, meritate tutti di crepare. L'assurdità divampa, c'è poca gente in gamba, soffocano verità con il silenzio stampa. Abbiamo un premier conosciuto conosciuto come pimp, perché è davvero un magnaccio e tende a fare la vita da VIP. Aspetto il giorno che muori, tu e tutti i personaggi coglioni che ti porti a Palazzo Grazioli. Quanto cazzo è viscido questo scenario, va tutto a puttane mentre tu ti scopi Patrizia D'Addario. Marrazzo insegna quanto è sporco quest'ambiente, che il governo è un troiaio, lo capisce anche un demente. Lui ha pagato almeno questo, però quelli che c'hanno più consenso se ne sbattono di aver buon senso. Il tricolore simboleggia il marciume, cappeggiato da un fotti ventenni anche se c'ha le rughe. Dalle mie parti è buio pesto, dalle loro parti il contesto è fatto di trans ed escort. La mia vita, è la mia vita questa, non potrà, no, ti prego no, mai dipendere da questi stronzi qua. Politica, politica assurdità, ed è inutile ti chiedi come cazzo andrà a finire, perché solo Dio lo sa. Brutti infami di merda, dai slow, morite lentamente, bastardi figli di puttana. Questo è il mio orgoglio nazionale, made in Italy, made in Italy. E dopo l'hip hop cambiamo genere, come siamo soliti a fare in questa radio, passare da un genere musicale ad un altro, senza inibizioni, senza freni, perché le musiche che vi passiamo a noi raccontano qualcosa, le nostre emozioni, e non facciamo nient'altro che portarvi le musiche, quindi poche chiacchiere, e questo genere è elettronico. Il primo gruppo che ci ascolteremo è della Francia, estratto da Gianello, con 5 album all'attivo, gli Eclectic con Samurai. We'll be right back. da Hamilton, Nuova Zelanda, qui su NRR, El Mian con She Won't Leave. Su NRR un artista italiano eccezionale che fa del computer musica soave. È in attività dal 1986, lo ritroviamo insieme a Pixiegus. Lui è Max Waves con Reflection. What have I found in this time and place? Maybe I have caught my stride. Maybe I have seen a sliver of the world. Maybe I will remember. Caught my stride for my hands and feet. For my hands in reflections. Maybe I will remember in this time, in this place, I have found all I questo poker. Andiamo ad ascoltare dalla Colombia i Total Inspector con Drop the Control qui su NRR. Thank you. cambiando nuovamente genere, ci sbattiamo verso Torino per trovare una band che suona insieme dal 2002. Sono i Backup con il disco Hard. Ci ascoltiamo Porte Chiuse. Thank you. dalla Nuova Zelanda, Coscope con Sit-in and Smoking, Sit-in and Smoking, Sit-in and Smoking. Qualche sera fa sulle pagine di MySpace ho conosciuto un ragazzo di Genova e mi ha detto che suona sotto etichetta Progetti Editori. A me non è dispiaciuto, ci presenta un pop, io vi lascio alla sua musica e alla sua poesia. Lui è Paolo Traversa, lo trovate su MySpace e ci ascoltiamo Eclissi Solare. Si narra di un tempo lontano in cui l'uomo parlava soltanto. La terra era piatta e i suoi mari segnavano la fine del mondo. Nel cielo vedevi volare stormi di uccelli già pronti a migrare. E da tempo già si consumava un amore impossibile da raccontare. Alla luna un amore eterno e profondo. La luna rimase ferita da questo suo dire sincero, facendo notare che era davvero improbabile. Non c'era spazio, non c'era tempo per un amore impossibile. La terra e le stelle d'incanto rimasero zitte a guardare. Ora impossibile era comunque da non accettare. Quel sole deluso e ferito così cominciò a macchiarsi. Quel disco ridente dorato voleva ormai solo oscurarsi. La luna d'argento che si consumava in un cielo pieno d'amore voleva sparire e morire, non trattenendo più proprio dolore. Dopo dopo il tramonto appariva più sola e più bella. La sua forma circolare cambiava la luce, diventava più fioca. La disco d'argento incantato a falce morente nel blu. La notte successiva non c'era più. D'un tratto la terra intervenne e pose fine alle loro pene. Propose un incontro solenne tra il sole e la luna, il cielo e le stelle. Così quest'amore impassibile divenne eterno e celestiale. Nacque per tutti così l'eclissi solare. L'eclissi solare. L'eclissi solare. Proprio qualche sera fa sono entrato in contatto con questa banda di Rovigo, che si chiama Funk Hell, che non è solo un posto dove mandare qualcuno, significa buco fante, preso dall'inglese. Molto presto con loro realizzeremo un'intervista dove ci racconteranno cosa pensano della musica, dell'arte, della politica, della situazione italiana. Loro hanno registrato un proprio demo nell'ottobre del 2009 Bubble, Bubble. Con l'etichetta Crossing Over. Il brano che vi propongo si intitola The Locker Quarax Carbo. The Locker Quarax Carbo. The Locker Quarax Carbo. The Locker Quarax Carbo. The Locker Quarax Carbo. Cause you see. qualche tempo fa ho intervistato su questi microfoni una band di Rovigo. Siccome non voglio che passino in dimenticatoio e perché poi a me piacciono particolarmente, vi rilancio Vien Tropica. Vertigine. Questa invece è Sorridi al muro de Il Maniscalco Maldestro, estratto dall'album Panna, polvere e vertigine. Buon ascolto qui su un'altra radio Roma. We'll be right back. Mister Brontolo ce li ha fatti conoscere in questa radio e io ve li ripropongo. Vengono dalla Svezia e ci ascoltiamo i Diablo Swing Orchestra con Balrog Boogie. Siamo giunti al termine di questo podcast, un'ora praticamente volata. Ho il tempo di un ultimo brano, loro sono i Reno Project, vengono da Parigi, quindi dalla Francia, sono insieme dal 2005 e hanno 3 album all'attivo. Anche questi, come molti altri gruppi, li trovate su Giamendo, ma nella playlist troverete indicazioni di tutti quanti i gruppi. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Atlanta, però prima io vi saluto, vi abbraccio e vi invito a seguirci qui su un'altra Radio Roma. Daje! Daje! Daje! Daje! Thank you. buonasera, buonasera, buonasera, buonasera, scusa. Allora, scusa, scusa, scusa. Possiamo... No, stavo dicendo, possiamo chiudere, no, guarda, siamo in chiusura. Scusa, scusa, buonasera. No, non scuso. Scusami, bella indigena della Prima Repubblica. Hai mai conosciuto l'uomo bianco? Hai mai conosciuto qua? Dunque, Franca, Yolanda, dunque, benvenuti a questa nuova edizione del TG, del regime, del TG. Avete visto tutti quanti con i vostri occhi il grande fallimento della festa del primo maggio? Dopo quella del 25 aprile, un flop colossale, non è venuto nessuno. C'è molto imbarazzo per Loghe che ha cantato da solo in piazza San Giovanni. I vicini si sono lamentati non tanto per il rumore, ma per tutte queste mosche che giravano. Quindi purtroppo era pieno. La sinistra colleziona un fallimento dopo l'altro. L'unica festa che pensiamo possa rimanergli è il 2 novembre. Però vi motivi. No. Ecco. Ma Michelino non ha chiesto di diventare presidente del consiglio. Ma che c'entra, ma neanche lui lo ha chiesto. Egli è il presidente del consiglio. E lo è per volere divino. Scusate, senti, scusa, scusa. Io ho capito, a me sembra di aver capito. A me sembra di aver capito, scusate. Io ho capito qual è il punto. Io, voi non vi fidate di Berlusconi. Allora, sentite, io mi considero suo amico per la pelle. Ma per la pelle, proprio la pelle, dove la pelle è più delicata, dove la pelle si può arrossare e va protetta e deve essere sempre pulita e asciutta. Non so se mi sono spiegato. Senta, abbiamo capito. Piuttosto, ci vuole spiegare questa storia dei garanti? Certo, chi garantisce per loro? Io ho un nome sicuro, è il nome di Silvio Berlusconi. Il garante dei garanti deve essere Silvio Berlusconi. E io ho qui la garanzia. Ma che cosa? Questa è la pagella scolastica di terza elementare, c'è anche la musica di Silvio Berlusconi. Se non vi basta questa, non so che altro dire. Ma siete veramente malfidati. Scusa, che ti facciamo? In giro. Ma che fa? Si garantiscono a vicenda? Cos'è? Un circolo vizioso all'infinito. I garanti garantiscono Berlusconi, che garantisce con la pagella che garantisce. No, guarda, anche io credevo, ma non è all'infinito, sono quattro passaggi in tutto, guarda. Guarda, contiamoli, d'accordo? Sì, d'accordo, però guardi, veramente io mi vorrei riprendere la linea. Adesso veramente. Basta, scusate, il primo maggio è finito. Tornate alle vostre case, tornate alle vostre case. Avete scelto la destra e la destra. Andate a lavorare, tornate alle vostre case. Vediamo il servizio. Non vogliamo sapere. Vediamo. Basta! Un'altra radio Roma. Stop! Ho detto, schiaccia stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop.